Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Quella di oggi è una puntata speciale. Abbiamo scelto quattro libri legati ai temi della comunicazione, dell'innovazione e dei consumi, e con gli autori abbiamo parlato di tecnologia e di vario di genere, di moda e stile, di big data e calcio e di pubblicità e nuovi consumi. Sondaggio veloce: PS4 o Xbox One? Raji? Xbox One. Penny? Leonard? PS4. Wolowitz? Buone entrambe. Bernadette? Ah, mi piace la Wii. Si definisce Digital Gender Divide o Digital Gender Gap, è il divario digitale di genere, il gap tecnologico esistente nel rapporto fra donne e nuove tecnologie rispetto agli uomini. Ha a che fare con la scarsa presenza femminile nelle discipline e nelle professioni STEM, un acronimo che sta per scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Colpa degli stereotipi di genere associati alle competenze digitali, tecnico-scientifiche, un tema che tutto il mondo si sta ponendo, perché per la crescente richiesta di professionalità di questo tipo il talento femminile sarà fondamentale, farà la differenza. Ecco perché abbiamo scelto come primo libro Le Infiltrate. Ci spiega chi sono l'autore, Nicola Palmarini. Ma Le Infiltrate sono tutte quelle ricercatrici, quelle appassionate di scienza, di tecnologia, di matematica, sono quelle che hanno sfidato un sistema che tipicamente tende ad escluderle e si sono infiltrate in un sistema che non sembra fatto per loro, che sembra disegnato prevalentemente per gli uomini, e così è sempre stato, e si sono permesse, con tutte le virgolette, di entrare in questo sistema, di combatterlo, di vincerlo, di portare il loro contributo, la loro differenza, la loro capacità, la loro competenza, e di dimostrare che si può tranquillamente fare. Una delle parole chiave del discorso, del racconto che sviluppi nel tuo libro, è consapevolezza. Da chi deve arrivare? Ma credo che ci sia anzitutto la necessità di sfatare i miti e gli stereotipi che purtroppo ci portiamo dietro, che sono ancora quelli che ancorano le donne ai ruoli per le donne, e anche questo dobbiamo metterlo tra virgolette, e quindi è necessario fare un passo e rendersi conto che non esiste una questione di genere per quanto riguarda la tecnologia, ovvero non c'è qualcheduno che è portato o meno portato. I dati che il Politecnico ci dà di uno storico 9% sulle lauree più hard in termini di ingegneria ci dice che non si riesce a superare quella barriera. E quella barriera sembra essere imposta dalla paura di non farcela, dal pensare di non essere all'altezza, dal credere che quelle non siano materie per ragazze, per donne, e quindi è necessario invece rendersi conto, siamo noi a dover dire ai nostri figli, alle nostre figlie, che ce la possono fare, e sono loro che devono cominciare a rendersi conto che non c'è niente di strano o di diverso nell'amare una materia tecnologico-scientifica. Tra i tanti dati che tu citi, il 5% delle ragazze a 15 anni pensa che da grande potrebbe diventare ingegnere rispetto al 28% dei ragazzi. Ecco, quindi il discorso sui condizionamenti ambientali, familiari, sociali deve emergere. Sì, credo sia proprio necessario parlarne. Penso che la cosa più importante che dobbiamo fare, e ti ringrazio per avermi invitato in trasmissione, è proprio questa, quella di dire a tutti, di urlarlo, di dirlo anche con pacatezza, se qualcuno non vuole sentire le urla, ma che è importante capire che c'è una possibilità, un'opportunità oggi che va colta, e per coglierla dobbiamo iniziare dall'inizio, dobbiamo spiegare che fin dall'elementare, probabilmente ancora da prima, permettendo di sporcarsi le mani con la tecnologia alle bambine tanto quanto ai maschi, di farlo in maniera naturale, di non pensare che ci siano professioni che sono, come dire, preclusa soltanto per una questione di genere. Il rischio davvero è quello di mancare un'opportunità cruciale, sicuramente per le donne, ma a mio avviso, e non lo dico davvero con retorica, per l'intero pianeta, perché è troppo importante la tecnologia per lasciarla solo nelle mani degli uomini. Non abbiamo assolutamente idea di come potrebbe essere una tecnologia con una componente molto più forte dal punto di vista femminile. Non abbiamo la controprova, non possiamo dire sia sarà necessariamente migliore. Io credo di sì, credo anche che ci sia, come dire, una mancanza di ossigeno nelle possibili visioni per affrontare dei temi cruciali della nostra vita. Pensate alla parte che riguarda la sanità, l'ambiente, l'ecologia, l'inquinamento, l'energia, i trasporti, cioè tutte tematiche che sono quelle che stanno davvero sfidando il pianeta. E la visione che noi abbiamo avuto oggi e la soluzione che abbiamo avuto oggi a questi temi complessi è stata prevalentemente portata avanti da uomini. Ci stiamo perdendo qualche cosa. Le Infiltrate non è solo un libro, è anche un progetto multimediale. Diamo tutti i riferimenti. In libreria, sui canali tradizionali, invece online abbiamo deciso di portarlo avanti proprio per cercare di far sì che questo dibattito, questo discorso non finisse alla pagina 157 del libro, ma andasse avanti e, come dire, potesse permettere alle lettrici, ai lettori di capire tutto quello che sta succedendo, perché ci sono tantissime iniziative ma spesso vengono mascherate dal linguaggio. L'appuntamento è su www.leinfiltrate.it, dove la possibilità di fruire ma anche di contribuire è proprio alla base del progetto. Il nostro desiderio è che questo non si fermi, c'è un'onda che comincia a muoversi e io credo, da quello che vedo, che sia un'onda che non può più fermarsi, credo che sia pronta probabilmente a sfondare nelle fondamenta del sistema e allora forse davvero vedremo un mondo diverso. La moda passa, lo stile resta. Coco Chanel. Cambiamo argomento, parliamo di moda, anzi di stile, con il libro Con Stile, come l'Italia ha vestito e svestito il mondo. L'autore è Alessandro Marzomagno, un autore che si cimenta nelle ricostruzioni delle storie di un settore, il making of, diciamo così. L'ha già fatto con l'editoria, la finanza e la buona cucina, ora appunto con il Made in Italy, raccontato attraverso l'evoluzione del concetto di eleganza. Ha voluto raccontare come l'Italia ha influenzato il resto del mondo, insomma, un po' appunto sulla continuità dei libri precedenti, no? Sono elementi che sono partiti dall'Italia e si sono globalizzati, per usare una parola moderna. Appunto, poi non parlo solo di moda, ma parlo anche di stili, parlo anche di accessori, di cosmetica, per esempio, di profumi, che sono tutti elementi molto molto italiani. Tu hai vivisezionato il tuo racconto, nel senso che lo hai proprio diviso per parti del corpo, andando poi ad analizzare i capi e gli accessori correlati. Ecco, è uno schema che ti è servito nella tua ricerca? Ma sì, perché insomma non volevo scrivere l'ennesima storia della moda, perché ce ne sono tante e anche molto qualificate. E io volevo così fare un racconto, raccontare delle storie, e quindi ho pensato di raccontare la storia della testa, la storia delle mani, delle gambe, del bacino, del petto e di come venivano ornati, agghindati, quindi non solo vestiti. Quale delle storie che sei andato ad analizzare, ad approfondire, ti ha più appassionato, ti ha più incuriosito quando te la sei trovata tra le mani? Ma a me una delle cose che ha divertito di più è come sono nati gli scarponi da sci di plastica. È una storia moderna, è una storia che risale alla fine degli anni 60 del Novecento, però insomma era divertente perché un giorno a Montebelluna in provincia di Treviso è stata la capitale mondiale dello scarpone da sci. C'è stato un periodo in cui tutti gli scarponi da sci si producevano lì, adesso insomma si producono in Cina perché costa meno. E comunque, dicevo, alla fine degli anni 60 un produttore di scarponi di cuoio e un produttore di tapparelle si sono ritrovati a discutere, io penso probabilmente davanti a un bicchiere di prosecco, visto che Montebelluna di fronte a Valdobbiadene, e hanno deciso di provare a fare il prodotto dell'uno con il materiale dell'altro. Cioè il produttore di tapparelli ha detto al produttore di scarponi: perché non li fai di plastica? Il produttore di scarponi ci ha provato. Beh, fantastico, bellissimo. Ma infatti

Questo ha consentito all'individuo, seppure gioco forza, ha consentito all'individuo di sviluppare un rapporto, possiamo dire, un po' più razionale, tra virgolette, con le merci. E sappiamo che poi, tra l'altro, gli oggetti, le merci, sono strumenti attraverso i quali l'individuo costruisce poi la propria identità, perché attraverso le merci non soltanto appunto definisce il suo rapporto con gli altri, ma anche il suo rapporto con il mondo, ed è un rapporto che adesso è investito di nuovi appunto valori, di nuove dimensioni. Sicuramente è un consumatore che ha dei tratti che aveva già comunque ben evidenziato Gianpaolo Fabris qualche anno fa, nel senso che è un consumatore più esigente, più selettivo, è un consumatore che dopo lungo apprendistato nei consumi ha un atteggiamento diverso rispetto alle merci. Il consumatore si è reso conto che il benessere non equivale al ben avere, diceva e scriveva Gianpaolo Fabris, che lei ha citato, lo ricordiamo, coautore di questo programma nella sua prima stagione nel 2006. Ecco, da questa premessa la domanda alla base del suo lavoro: gli spot delle nostre TV, la pubblicità è sintonizzata con questo nuovo spirito del tempo? Quale risposta dà lei? Allora, in realtà il discorso è molto complesso, però proverò ad accennare brevemente alla conclusione a cui sono pervenuta. In linea di massima, la pubblicità italiana continua ancora ad essere, in molte sue espressioni, continua ad essere banale, nel senso che effettivamente continua a ripetere degli stereotipi che spesso sono anche offensivi, e in questo senso penso ad esempio alla figura della donna, di cui parlo anche all'interno del volume. Al di là di questo, ricorrono una serie poi di gag e di linguaggi che comunque non, come dire, non dimostrano che la pubblicità italiana stia effettivamente cambiando. Sembra piuttosto arroccata su tutta una serie di cliché che conosciamo ormai da tempo. Però se noi iniziamo a considerare, che quello che ho tentato di fare nel mio studio più nel dettaglio, i messaggi, effettivamente dovendo la pubblicità spalmarsi su più media, diventa sempre più fondamentale che sia in grado di costruire una cosiddetta telling idea, cioè un'idea narrativa molto forte, che sia in grado di svilupparsi attraverso più media e di risultare efficace. Per risultare efficace, da qui arriviamo alla domanda che mi sono posta nel mio libro, per essere efficace la pubblicità che cosa deve fare? La pubblicità deve diventare rilevante però per il consumatore, cioè deve sapergli parlare di un oggi che il consumatore stesso conosce. Ci rendiamo conto come di fatto un po' questo stia avvenendo, come cioè la pubblicità si stia sintonizzando con quello che è lo zeitgeist, cioè lo spirito del tempo. Lo spirito di questo tempo. Quindi, sulla scia della sua riflessione, che voto dà al mondo pubblicitario nel suo complesso? Raggiunge la sufficienza? Sì, raggiunge la sufficienza, di più non gli darei però per il momento, però la sufficienza direi che la raggiunge sicuramente. Grazie in regia ad Andrea Roccabella. Essere Avere finisce qui, a domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.